ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi. Fausto Paravidino legge «Ho servito il re d'Inghilterra» di Bumil Rabal, traduzione di Sergio Corduas. State bene attenti a quello che adesso vi dico. Ebbi la fortuna che l'avvenimento e onore più alto che fra tutti gli alberghi e ristoranti può accadere ad uno soltanto, quello accadde all'Hotel Parigi. Si scoprì che al castello il presidente non aveva posate d'oro perché una visita che era venuta a Praga per una cosiddetta visita ufficiale aveva un debole per l'oro. Il maestro del cerimoniale e lo stesso cancelliere avevano aperto trattative se non si potessero prendere in prestito posate d'oro da privati o se non le avrebbero prestate i principi Schwarzenberg e Lobkowitz. Si trovò però che quei nobili le posate le avevano, ma non abbastanza, e poi dappertutto c'erano le iniziali e stampati nelle impugnature dei cucchiai e dei coltelli gli stemmi degli ordini dei tosoni arciducali ai quali appartenevano quelle casate. L'unico che poteva prestare al signor presidente le posate d'oro era il principe Turn Taxis, ma avrebbe dovuto mandarle a prendere a Ratisbona, dove l'anno prima erano state al matrimonio di un membro di questa ricca casata che a Ratisbona aveva non soltanto i suoi alberghi, non soltanto le sue vie, ma anche interi quartieri e addirittura una sua banca. E così tutti i pretendenti furono scartati, e alla fine il cancelliere in persona venne da noi, e dopo aver parlato col capo, il cancelliere era molto arrabbiato, ed era un buon segno. Tutto questo senza saperlo l'aveva letto il signor Scrivanek, quello che aveva servito al re d'Inghilterra, dalla faccia del cancelliere e poi dal volto del signor Brandeis, proprietario dell'Hotel Parigi. Era venuto a sapere che il capo aveva rifiutato di prestare le sue posate d'oro, e semmai allora che il banchetto si facesse qui, da noi, e che soltanto così avrebbe tirato fuori dalla sua cassaforte i coltelli, le forchette, i cucchiai e i cucchiaini d'oro. E così venni a sapere, e quasi stramazzai, che il nostro albergo aveva posate d'oro per 325 persone, e infatti sì, al castello decisero che il pranzo di gala per un prezioso ospite dell'Africa e il suo seguito si sarebbe fatto qui, da noi. Cominciò a mettere in ordine l'intero albergo. Vennero gruppetti di donne con secchi e stracci e pulivano non solo i pavimenti, ma anche le pareti e i soffitti e tutti i lampadari. E l'albergo riluceva e brillava, e poi venne il giorno in cui doveva arrivare e scendere da noi l'imperatore d'Abissinia col proprio seguito. Per l'intero giorno un camion raccolse nelle fioriere di Praga tutte le rose, la sparagina e le orchidee, ma all'ultimo momento arrivò di nuovo il cancelliere del castello in persona e disdisse l'alloggio, ma confermò al pranzo di gala. Però per il capo era uguale, in quanto tutte le spese fatte per l'alloggio le mise in conto, anche quelle pulizie, e così ci preparavamo a quel pranzo di gala per 300 persone. Prendemmo in prestito i camerieri e il maître dell'hotel Steiner, e per quel giorno chiuse il proprio albergo il signor Srubeck e ci prestò i camerieri suoi, e poi dal castello vennero gli agenti segreti, quelli che insieme a me avevano portato il bambino di Praga, e si portarono 3 uniformi da cuoco e 2 fracche da cameriere. E si cambiarono subito per allenarsi e ficcarono ben bene il naso in cucina perché nessuno avvelenasse l'imperatore, e i camerieri a loro volta esaminavano le sale del ristorante da dove sarebbe stato meglio sorvegliare l'imperatore, ma quando lo chef di cucina e cancelliere e il signor Brandeis stesero il menù per 300 ospiti, 6 ore intere lavorarono col menù, e il signor Brandeis poi fece mettere nei suoi magazzini frigorifero 50 cosciotti di vitello, 6 vacche per la minestra, 3 puledri per le bistecche e 1 castrato per la salsa, 60 porcelli di peso non superiore a 60 kg, 10 porcellini, 300 polli, per non contare poi i caprioli e 2 cervi, col maître Scrivanek scesi per la prima volta nelle nostre cantine, e il cantiniere, sempre sotto il controllo del maître, calcolò le riserve di vini e cognac e altri liquori. Restai annichilito. Thank you. E il maître Skrivanek, passando di cantina in cantina, accarezzava sempre i colli delle bottiglie. Li accarezzava dolcemente, come se fosse stato un alcolizzato, sebbene in realtà non avesse mai bevuto alcolici. Non avevo mai visto che il signor Skrivanek bevesse, e in cantina mi venne in mente anche che non avevo visto mai che il maître Skrivanek si sedesse. Stava sempre in piedi. Si accendeva una sigaretta, ma stava sempre in piedi. E lui in quella cantina mi guardò e me lo lesse. Che pensavo, dovete indovinarlo, perché di punto in bianco disse: ricordati che se vuoi essere un buon maître, allora non ti devi sedere, perché poi ti farebbero malissimo le gambe e il turno per te sarebbe un inferno. E così il cantiniere spense e uscimmo di nuovo dalle cantine. Ma quello stesso giorno giunse la notizia che l'imperatore d'Abissinia portava con sé i propri cuochi, e che proprio da noi, e proprio perché avevamo le posate d'oro, come le aveva lui in Abissinia, i suoi cuochi avrebbero fatto una specialità abissina. Il giorno prima che si tenesse il banchetto vennero quei cuochi. Erano neri e lucenti, però avevano freddo. Erano tre, e con loro c'era un interprete, e i nostri cuochi dovevano fargli da aiutanti, ma lo chef di cucina si slegò il grembiule e per quel giorno se ne andò. Si ribellò, era offeso. Tuttavia i cuochi abissini cominciarono a fare alcune centinaia di uova sode, e ridevano, sogghignavano, e poi portarono anche 20 tacchini e cominciarono ad arrostirli nei nostri forni, e prepararono dentro grandi zuppiere certi ripieni per i quali avevano bisogno di 30 ceste di panini, e portarono su un carretto anche manciate piene di spezie e di prezzemolo, e i nostri cuochi gli tritavano tutto. E noi tutti eravamo curiosi, che avrebbero fatto quei ragazzi neri? Gli succedeva anche che gli venisse sete, e così gli portavamo birra Pilsen, e loro degustavano, e in cambio ci facevano assaggiare un loro liquore. Era fatto con qualche erba, ed era tremendamente inebriante, e profumava di pepe e di pimento macinato. Ma poi prendemmo paura, perché si fecero portare due antilopi, che erano già sventrate, le spogliarono velocemente, le avevano comprate al giardino zoologico, e nelle pentole più grandi che avevamo ci cucinavano le antilopi, ci buttavano sotto panetti interi di burro, dai sacchetti versavano le loro spezie. Dovevamo tenere aperte tutte le finestre, tanto vapore c'era. Poi dentro le antilopi infilarono quei tacchini con ripieno cotti a metà. Lo spazio rimasto vuoto lo riempirono con centinaia di uova sode e arrostirono tutto insieme, ma poi l'intero albergo quasi crollò. Lo stesso capo prese uno spavento, in quanto a quello non era preparato. I cuochi portarono davanti all'albergo un cammello vivo e lo volevano abbattere. Ma di questo noi avevamo paura, però l'interprete pregò e pregò il signor Brandeis, e così vennero i giornalisti, e quelli fecero sì che il nostro albergo diventasse il centro dell'attenzione della stampa. Così legarono il cammello che belava chiaro e forte, come a dire di non tagliargli la gola con un coltello da macellaio kosher, e il cortile era pieno di sangue, e già il cammello tirato su per le zampe saliva su una carrucola. Scavavano coi coltelli per prendere l'interiore, e poi disossarono tutto quel cammello senza zampe, proprio come le antilopi, e portarono tre carri interi di legna, e il capo dovette chiamare i pompieri, e quelli pronti con la pompa guardavano come i cuochi accesero velocemente il fuoco, un fuoco grande come quando si fa il carbone di legna, e su quel fuoco, su un treppiede, morto il fuoco e rimasto il carbone ardente, rigiravano con uno spiedo e arrostivano l'intero cammello. E quando ebbero quasi finito, misero nel cammello le due antilopi, dentro le quali c'erano i tacchini come ripieno, e anche dentro i tacchini c'era il ripieno, e ancora dei pesci, e lo spazio vuoto lo foderarono con le uova sode, continuando a versare le loro spezie, e bevevano birra, perché avevano sempre freddo anche accanto a quel fuoco, come i birocciai della birra, che d'inverno per scaldarsi bevono la birra fresca. E questi cuochi neri, quando ormai era apparecchiato per 300 ospiti e le auto avevano cominciato a portarli e i portieri aprivano le limousine, questi negri erano riusciti nel cortile ad arrostire non soltanto i porcellini e i montoni, ma erano riusciti a cuocere nelle marmitte minestre con tanta carne che il capo non rimpianse di aver comprato tante provviste. E poi giunse Le Salissier, in persona, accompagnato dal presidente del consiglio, e tutti i nostri generali e tutti gli altri papaveri dell'esercito abissino. Tutti erano pieni di decorazioni appuntate, ma l'imperatore arrivò e ci conquistò tutti. Portava soltanto un'uniforme bianca, senza decorazioni, così, con leggerezza. Solo al dito aveva un grande anello, però i suoi membri del governo, alcuni atamani di quelle sue tribù, quelli portavano caffettani variegati e alcuni avevano grandi spade, ma quando si sedevano si vedeva che sapevano comportarsi, avevano naturalezza. Le sale dell'Hotel Parigi era apparecchiato e accanto a ogni piatto brillavano le posate d'oro, servizi di forchette, coltelli e cucchiaini, e poi il presidente del consiglio dette un cordiale benvenuto a Aile. Aile parlò come se abbaiasse, l'interprete traduceva che l'imperatore d'Abissinia aveva l'onore di invitare gli ospiti a un pranzo abissino. E uno col vestito di calicò, una figura grassa avvolta in 10 metri di panno, batté le mani. E noi servimmo gli antipasti che i cuochi neri avevano preparato nella nostra cucina. Vitello freddo in salsa nera, mi leccai appena il dito con un po' di quel sugo sgocciolante e tossicchiai, tanto era forte quell'estratto, per la prima volta vidi, quando i camerieri posarono con eleganza i piattini, come si sollevarono le nostre forchette d'oro. 300 forchette e coltelli d'oro lampeggiavano per le sale del ristorante. E il maître fece il segnale e fece versare bicchieri di vino bianco della Mosella. E giunse il mio momento perché, come vidi, avevano dimenticato di versare il vino all'imperatore stesso. Presi una bottiglia con un tovagliolo e neppure sapevo che cosa mi era venuto in mente. Mi avvicinai all'imperatore, mi inginocchiai su un solo ginocchio, come un chierichetto, feci un inchino, ma quando mi alzai tutti mi guardavano e sulla fronte, anzi nella fronte, l'imperatore mi stampò una croce, mi benedì, così, col dito. E io versavo. E dietro di me stava il maître dell'hotel, Srubeck, che se n'era dimenticato. E io sobbalzai, che cosa avevo combinato, con gli occhi cercai il maître Scrivanek, e vidi che annuiva, che era contento che io avessi avuto quell'attenzione. E io posai la bottiglia, e guardavo come l'imperatore lentamente mangiava, bagnava un po' nel sugo un pezzetto di carne fredda, come se assaggiasse appena. Annuiva e masticava con calma e con la forchetta faceva una croce segnalando che gli bastava. Sorseggiava un po' di vino e si asciugava lungamente i baffi col tovagliolo. E poi venne portata la minestra e di nuovo i cuochi neri erano lesti. Forse per questo avevano sempre freddo e siccome bevevano birra non facevano neppure in tempo a porgere le ciotole per la minestra, tanto veloce un maestro seguiva l'altro. Anche gli agenti travestiti da cuochi se ne meravigliavano e l'avrei anche dimenticato, ma quegli agenti segreti si fecero fotografare insieme ai cuochi neri per ricordo e intanto i nostri cuochi in cortile rigiravano lentamente sui carboni ardenti il cammello ripieno che bagnavano con un pennello fatto di rametti di menta che emergevano nella birra. Se l'erano inventato quei cuochi neri, il capocuoco quando scoprì quello spennellamento fu tutto contento e disse, come tradusse l'interprete, che per questo i cuochi potevano probabilmente aspettarsi l'ordine di Maria Teresa e poi, dopo questa pietanza, a tutti i cuochi e servitrici e maître e aiutanti e camerieri cadde un peso dalle spalle perché quei neri avevano fatto fronte a tutto, sebbene ingollassero continuamente birra. ebbi il riconoscimento che dallo stesso imperatore, come mi disse l'interprete, ero stato scelto per continuare a servire cibo e bevande all'imperatore, e ogni volta mi inginocchiavo in frac su un ginocchio, e poi servivo, e poi mi allontanavo e facevo attenzione al segnale per versare o per prendere il piatto, ma l'imperatore mangiava molto poco. Si bagnava appena le labbra, annusava appena come l'assaggiatore capo, mangiucchiava e sorseggiava appena un po' di vino per continuare a chiacchierare col presidente del consiglio, e gli ospiti erano lontani secondo l'ordine e la dignità da colui che offriva questo banchetto. Quelli mangiavano e bevevano sempre di più e più voracemente, finché ai tavoli lontani e nelle salette o nelle sale laterali mangiavano tanto che sembravano aver sempre fame, e quindi mangiavano i panini. Addirittura un ospite si mangiò da 3 vasi i fiori cosparsi di sale e pepe dei ciclamini. E gli agenti stavano negli angoli e angoletti delle sale, in frac come camerieri, con le salviette sulle braccia, facendo attenzione che nessuno rubasse qualche nostra posata d'oro. E così si avvicinava al culmine del pranzo. I cuochi neri affilavano lunghe sciabole, delle specie di coltellacci per kasher. Poi 2 negri sollevarono quello spiedo sulle spalle. Un terzo ripassò coi fuscelli di menta la pancia pepata del cammello ed entrarono nelle sale del ristorante e attraversarono la sala e la stanzetta, e l'imperatore si alzò e indicò con la mano il cammello arrostito, e l'interprete traduceva, una specialità africana e araba, una piccola attenzione dell'imperatore d'Abissinia, e 2 aiutanti portarono al centro dell'albergo 2 tavolacci per la maialatura, li accostarono e con 2 chiavarde li attaccarono, e su questo immenso tavolo deposero il cammello e portarono i coltelli, e con lunghi tagli divisero il cammello a metà, e quella metà di nuovo a metà, e un fantastico profumo si diffuse, e immancabilmente in ciascuno di quei quarti c'era un pezzo del cammello e dell'antilope, e nell'antilope il tacchino, e in quel tacchino pesci e ripieno e corona di uova sode. E i camerieri porgevano i piatti e servivano a partire dall'imperatore il cammello arrosto, e io mi inginocchiai e l'imperatore annuì con gli occhi e io gli servii quel loro piatto tradizionale, che doveva essere ottimo, perché tutti gli ospiti tacquero e si sentiva soltanto ciò che era bello da vedere, il tintinnio delle nostre forchette e coltelli d'oro. E poi accadde ciò che a noi e a me e forse neppure al maître Scrivanek non era ancora accaduto. Prima un consigliere del governo, noto buon gustaio, fu così entusiasta di quel cibo, di quel cammello, che s'alzò e incominciò a gridare. Così gridava, il suo volto irradiava al massimo entusiasmo, ma come gli piaceva tanto, così anche non gli bastava con la smorfia, incominciò come a fare esercizi, come al raduno del suo collo, e poi si batté il petto, e poi si prese un altro pezzo bagnato nel sugo, e ora quel cibo gli fece un tale effetto che anche i cuochi neri stavano immobili con quei coltellacci e guardavano l'imperatore, ma l'imperatore probabilmente c'era abituato, si limitava a sorridere, quindi sorridevano anche i cuochi neri, sorridevano e annuivano col capo, e anche i comandanti avvolti in stoffe pregiate con disegni come quelli che mia nonna aveva sui grembiuli oppure in stoffe variegate di taffetà, e quel consigliere di governo non si trattenne più e corse fuori a gridare sul marciapiede, e poi ritornò di corsa e se ne prese ancora un pezzo con la forchetta, e questo fu il culmine, perché correva e gridava, correva fin davanti all'albergo e lì gridava e danzava e esultava e si batteva al petto e di nuovo tornava di corsa, e nella sua voce c'era il canto e nelle sue gambe la danza di ringraziamento per il cammello ripieno così ben fatto, e di punto in bianco si inchinò a quei 3 cuochi profondamente. Dapprima si inchinò alla russa fino alla vita e poi a terra, Un secondo mangione, un generale in pensione, quello a sua volta guardava fisso il soffitto ed emetteva una lunga, tetra nota, una specie di lungo, voluttuoso lamento che saliva nelle cadenze mentre prendeva un altro boccone, masticava e mandava lamenti, e fregnava e mordicchiava la carne, e quando prese un sorso di Riesling di Zernowski si raddrizzò e fregnò tanto che anche i cuochi neri capirono ed esclamarono gioiosi: «Yes, yes, Samba, yes!» E questa poi fu probabilmente la ragione per cui l'umore salì a tal punto che il presidente del consiglio strinse la mano all'imperatore ed entrarono i fotografi e tutto venne fotografato. Una luce violenta crepitava senza sosta e dentro quel fulgore da Bengala i nostri delegati e quegli abissini si strinsero le mani. Mentre Ailes e la Sie se ne stava andando con numerosi inchini, tutti gli ospiti si inchinavano anche loro, i generali dei due eserciti si scambiavano le decorazioni, si decoravano a vicenda e i consiglieri di governo si appuntavano le stelline al fianco del frac e sul petto le stelle e le fasce che avevano avuto dall'imperatore, e io, il più piccolo, di punto in bianco, fui preso per mano e condotto dal cancelliere dell'impero. Mi strinse la mano per l'impeccabile servizio e mi appuntò alla dignità più bassa, è vero, ma... per grandezza la decorazione più grande con una fascia azzurra per meriti verso il trono dell'imperatore d'Abissinia. E io quella decorazione l'avevo appuntata sul risvolto del frac e la fascia azzurra sul petto. Abbassai gli occhi e tutti me la invidiavano, e come vedevo più di tutti il maître dell'hotel Surbeck, il quale in realtà doveva lui ricevere la decorazione. Io, vedendo i suoi occhi, avrei preferito dargliela, perché gli mancavano un paio d'anni per la pensione e forse solo questo aspettava, in quanto con una decorazione così si potrebbe aprire un grandissimo albergo. L'hotel all'ordine dell'imperatore d'Abissinia, ma i giornalisti e i reporter mi stavano fotografando e avevano scritto il mio nome, e così camminavo con quella decorazione e la fascia azzurra e raccoglievamo gli utensili e li portavamo in cucina, posate, piatti, lavoravamo ancora a lungo, fino a notte, e quando le donne, sotto la sorveglianza degli agenti travestiti da cuochi e camerieri, ebbero lavato e asciugato 300 posate d'oro e il maître scrivane, che le ebbe contate con l'aiuto del maître dell'hotel Surbeck, dovettero contare di nuovo e poi ancora una volta, e poi contò i piccoli cucchiaini da caffè il capo in persona, e quando finì di contare, impallidì. Un cucchiaino mancava. Contarono di nuovo, e poi si consultarono, e io vidi come il maître dell'hotel Surbeck diceva qualcosa al capo a bassa voce, e poi si meravigliavano, i camerieri presi in prestito si lavavano, e ora andavano anche loro nella sala attigua, perché di cibo ce n'era tanto, e ora anche loro, e poi anche i cuochi e le cameriere vennero tutti lì, non per finirlo, ma per gustare con calma, con l'abbondanza di cibi rimasti, quei bocconi prelibati, e principalmente guardavano i nostri cuochi, i quali col gusto analizzavano e studiavano di quali spezie era fatto questo o quel sugo, e quali procedimenti erano stati scelti, così come avevano visto, perché potesse nascere un cibo così splendido che il consigliere di governo Konopaschek, che era l'assaggiatore di cibi a Castello di Praga, aveva potuto gridare di entusiasmo a quel modo. ¶¶ Io non mangiavo molto. Vedevo che il capo non mi guardava più, che non provava gioia per quella mia infelice decorazione, come anche il maître degli Srubek parlava a bassa voce con il nostro maître Scribanek, ed un colpo mi balenò che ciò di cui parlavano era quel cucchiaino d'oro, che forse ritenevano che quel cucchiaino l'avessi rubato io. Mi versai un bicchierino di cognac che era lì solo per noi e bevi. Me ne versai un altro e mi diressi verso il mio maître, verso colui che aveva servito il re d'Inghilterra. Si era arrabbiato con me, gli rivolsi la parola. Accennai che ingiustamente avevo ricevuto la decorazione io, sebbene dovesse ricevere il maître dell'hotel Srubek, oppure lui stesso, oppure il nostro capo, ma nessuno mi ascoltava. Anzi, vidi che il maître Scribanek mi guardava il mio farfallino, mi guardava tanto fisso che io avvertii lo stesso sguardo di alcuni giorni prima, quando mi guardava la cravatta, quella bianca con i puntini azzurri come i punti sulle ali dei papiglioni, quella cravatta che avevo preso in prestito senza permesso dall'armadio dove si riponevano gli oggetti e i vestiti qui dimenticati dai nostri clienti. E io lessi negli occhi del maître che, visto che senza permesso avevo preso quella cravatta, perché non avrei potuto prendermi il cucchiaino d'oro che avevo portato via come ultimo dal tavolo dello stesso imperatore d'Abissinia. Ed era andata così, io l'avevo portato via e l'avevo messo direttamente nell'acquaio. E mi inondò una gran vergogna mentre stavo in piedi con il bicchiere pronto, perché volevo brindare con il maître, il quale era per me la cosa più grande, più alta al mondo, superiore all'imperatore stesso, al presidente. E anche lui sollevò il bicchiere, ma esitò un momento. Io continuavo a sperare che avrebbe brindato con me per quella mia infelice decorazione, ma lui, che sapeva sempre tutto, ora non sapeva. Brindò con quel maître degli Srubek. Avevano la stessa età. E me non mi guardò più. E io portai via il mio bicchiere, ancora levato, e lo bevvi, e dentro di me cominciò a bruciare, e io ardevo, e mi versai un altro cognac. Vi basta? Con questo oggi finisco. Fausto Paravidino ha letto Ho servito il re d'Inghilterra, di Bumil Rabal, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Ad alta voce @rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.